140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studio Q, Milano. Cantautore, autore per Red Canzian, torna con un nuovo disco, Miki Porru. Con Diamanti esplora tutti i colori dell'amore. Nasce sulla spinta del lavoro che avevo fatto come autore per l'album di Red, e dove avevo scritto tantissimi testi, così, quindi avevo la penna in caldo, diciamo così, no? E ne è venuta fuori una specie di concept sulle relazioni sentimentali. Quindi sono 10 canzoni, Diamanti, dove io butto dentro tutto quello che avevo da dire sul mio vissuto e spero anche che quello di tante altre persone, che riguarda poi l'amore, chiamiamolo così, anche se a me piace più dire le relazioni sentimentali, perché poi se uno ascolta le mie canzoni non capisce molto se io ci credo o meno nell'amore, capito? Perché è un tema centrale ma trattato, diciamo così, senza troppe manie consolatorie, non so come dire, capito? E quindi alla fine credo che sia un disco anche parecchio intenso, insomma, sono molto soddisfatto, posso dirlo, no? Sì. Questa è una canzone che fa male, che non avrei voluto mai suonare. Questa è una canzone che non salva, che non serve, che non vale. Questa è una canzone che non crede, che ti sta cercando e non ti vede. Questa è la mia chiesa senza fede e non si sa se Dio provvede. Esercizio di stile, perché l'amore come sconfitta, come cambiamento, come rimpianto, eccetera eccetera, è come se tu avessi deciso di fare 10 disegni utilizzando un colore per ognuno. È vero, infatti si può parlare tranquillamente anche di diverse sfumature, angolature, cioè diciamo che tutte le canzoni trattano questo tema trito e ritrito, che è l'amore nel pop, nella canzone, eccetera, che però è stato trattato, voglio dire, è entrato la porta principale anche di cantautori eccelsi, grandiosi, no? Pensiamo, non è che De André non parlasse d'amore, o De Gregori non parli d'amore, o Brel, Ferré, adesso non per fare dei paragoni che sono inopportuni, vista la mia statura rispetto alla loro, che è molto più alta naturalmente, però per dire che sì, è vero che le canzoni d'amore nel pop ci escono un po' dalle orecchie, no? Però proprio per questo mi sembrava una sfida degna di essere affrontata, perché invece ne ho voluto parlare in modo sempre diversificato, e quindi trattarlo sia negli aspetti tragici che negli aspetti gloriosi, che negli aspetti del disincanto, della perdita, delle trasformazioni che le relazioni di coppia subiscono con il tempo, eccetera. E se il grano di quei giorni oggi è pane buono, tutto il merito va dato a come eravamo. Eravamo buoni dentro, eravamo cielo e vento, cielo e vento. Cielo e vento, cielo e vento. Ballavamo su. Sei affidato per una piccola parte anche alla produzione dal basso, al Music Razer, chiedere la collaborazione di amici, di fan, del pubblico per raggiungere una certa cifra prima dell'uscita del disco. Tu in particolare avevi fatto una sottoscrizione, possiamo dirlo così in italiano, per la promozione del disco, ed è andata incredibilmente bene. Ho adottato questo metodo del crowdfunding, che è, insomma, abbastanza diffuso, specie nei paesi anglosassoni, per due motivi. Primo, perché non mi sembrava poi così scandaloso, no? Se tu hai una cosa da offrire pensi sia valida, magari chiedere a tuoi potenziali fan di dare un loro contributo per sentirsi parte di un progetto. E infatti poi ho previsto tutta una serie di ricompense man mano che donavo. E secondo, perché io nella mia vita turbolenta ho fatto anche il fundraiser e quindi avevo voglia di mettere in campo anche delle competenze che non potevo usare altrimenti. E infatti abbiamo raccolto il 161% rispetto all'obiettivo ed è bello, bello, bello. E Diamanti può servire anche a questo, a ribadire il tuo talento non solo da cantautore ma anche da autore tout court. Ti piacerebbe esplorare questa via? Io amo molto scrivere anche per altri, è un lavoro quasi diverso, è un po' più difficile perché tu quando scrivi per altre persone, per altri artisti, devi praticamente metterti negli occhi, nei sensi di queste persone, perché le canzoni devono essere interpretate in maniera giusta. Io nel mio piccolo, quando mi chiamano, corro sempre, nel senso che mi piace anche scrivere delle cose completamente diverse da quelle che scrivo per me. Quando Red mi ha fatto fare il suo disco come autore di testi eccetera e mi ha detto che non voleva assolutamente che fosse una cosa alla Pooh, io ero entusiasta, ma non perché non apprezzi Pooh, perché mi piaceva questa cosa di far crescere insieme a lui una cosa su di lui, diciamo così, no? Che lo distinguesse come singolo rispetto al gruppo eccetera. E sono sempre delle sfide interessanti e quindi spero che tramite Diamanti magari la mia penna, il mio modo di scrivere, insomma, se ne accorgano più persone, perché no, io ci sono. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Miki Porru. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.